Come state, chiesa? Bene, che bello, non c'è posto migliore di questo. Non c'è cosa migliore da fare il sabato, la domenica sera, se non quella di stare qui insieme come famiglia e lodare il nostro Dio, perché Lui solo è degno. Amen? Chi è d'accordo con me? Bellissimo, bellissimo. E stasera vogliamo... non vogliamo perdere l'occasione di essere arricchiti ancora di più da quello che è il tesoro che è presentato da noi, per noi, per ognuno di noi, dalla parola di Dio. E questa sera parleremo di una storia che a me sta particolarmente a cuore. È la storia del nostro amico Nicodemo. Quanti conoscono Nicodemo? Benissimo, se non lo conosci, oggi avrai l'occasione di conoscere un po' di più di questo nostro amico. E perché mi sta a cuore questa storia? Semplicemente perché su questa storia ho fatto il mio primo studio biblico e avevo forse 8 anni ed ero con papà ed eravamo in macchina, stavamo ritornando da un viaggio per Porte Aperte. E papà doveva predicare quella domenica, quindi insieme stavamo in macchina, in viaggio, lui sfrecciava a 100 tanto all'ora, però questa cosa non la diciamo a nessuno, che rimanga tra di noi, e papà mi fa, noi mi apri la Bibbia e leggiamo Giovanni 3, dal versetto 1 al versetto 10, ok, quindi io la leggo con la vocina di una bambina di 9 anni, e papà incomincia a farmi tutte le domande giornalistiche. Cioè, ok Noemi, chi è il protagonista di questa storia? E perché? E cosa? E come? E dove? E quando? E quindi domanda dopo domanda, è vero Pat, lo ricordi? Domanda dopo domanda, mi sono innamorata di questa storia. Ma non solo, mi sono innamorata della Bibbia, mi sono resa conto di quanto con una lettura un tantino più attenta, di quanto tesoro c'è nascosto, che poi non è così neanche tanto nascosto, è a disposizione di ognuno di noi. Per cui io voglio aprire questa sera con una piccola parentesi. Se hai la grazia di essere un genitore, per piacere, leggi la Bibbia con i tuoi figli. Leggi la Bibbia ai tuoi figli. Leggi la Bibbia per i tuoi figli. Forse ti diranno che è noioso, forse ti faranno la faccia un po' svogliata all'inizio, ma questa è l'eredità più grande che tu puoi lasciare ai tuoi figli. E io lo dico per esperienza personale, per questo grazie papà, per quel viaggio e per tutte le altre volte che mi hai costretto a leggere la Bibbia, per quante volte l'abbiamo letta insieme, e grazie anche a mamma che lo fa con noi, lo fa con lui, ed è questa l'educazione che mi hanno dato ed è bellissimo, grazie. Quindi questa, diciamo, era un momento di famiglia e vogliamo incominciare. Nicodemo, il nostro amico Nicodemo, Giovanni 3 dal versetto 1 al versetto 10. Quello che vorrei fare con voi è semplicemente leggere verso per verso e capire bene, che cosa questa storia ci vuole insegnare? Vi va? Perfetto. Quindi, c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei giudei. Che cosa significa che Nicodemo era un capo dei giudei? Significa che era un uomo religioso, che era un uomo che aveva studiato, era molto colto, sapeva tante cose. Era un uomo che faceva parte, anzi rappresentava proprio un'elite religiosa, un'elite politica, e il suo scopo, il suo lavoro era quello di assicurarsi che tutti vivessero in accordo con quella che era la legge del Vecchio Testamento. Quindi il lavoro di Nicodemo era quello di sapere benissimo la storia del Vecchio Testamento, è quello di far sì che tutti vivessero alla luce di quello che il Vecchio Testamento insegnava. Questo era quello che faceva Nicodemo. Praticamente era come Gianluca, uno che sapeva tante cose come le sa Gianluca, e non era solo uno che sapeva, era il capo di quelli che sapevano. Quindi abbiamo capito più o meno di chi stiamo parlando. Era un uomo che... almeno all'apparenza, era un uomo a posto, era un uomo giusto, era un uomo rispettato da tutti. Ed era anche un uomo abbastanza curioso, quindi lo vediamo nel verso 2. che venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, che significa maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare di questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. In altre parole, Nicodemo aveva visto che Gesù aveva sfamato una moltitudine di persone con solo 5 pani e 2 pesci, o il contrario, non lo so, non mi ricordo mai. Aveva sentito che Gesù aveva guarito, aveva liberato, aveva predicato a decine e decine di persone. E in tutto questo Nicodemo, con i suoi amici teologi, aveva riconosciuto che c'era qualcosa di speciale in Gesù. C'era qualcosa che doveva avere per forza una natura divina. E quindi dice: Gesù, noi ci abbiamo pensato e abbiamo visto che non sei come tanti di quei ciarlatani che predicano cose che non ci sono né in cielo né in terra. Abbiamo visto che quello che fai ha qualcosa di speciale, ha qualcosa di divino, non può essere che lo fai solo tu con le tue forze, ma Dio deve essere con te. Sei speciale, Gesù. Questo è quello che Nicodemo dice. E davanti a questo complimento, che mi sembra un complimento bello apposta, cioè se fossi stata io in Gesù, avrei detto: grazie Nicodemo, hai capito tutto. E invece no. Gesù cosa risponde? In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non amate Gesù? Cioè che se ne esce così, con queste risposte, che tu dici: vabbè, ma Gesù, io un complimento ti ho fatto, perché me le stai dando addosso? Nicodemo dice: Gesù, tu sei speciale, c'è qualcosa di speciale in te? E Gesù risponde: Nicodemo, se tu non sei nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Cioè Nicodemo non l'aveva neanche citato, il regno di Dio. Allora ci deve essere qualcosa che forse a una prima lettura ci sfugge, ma se pensiamo da dove viene Nicodemo, quali sono stati gli insegnamenti che ha ascoltato, qual era la sua aspettativa di vita, allora tutto prende più senso, perché Nicodemo, come abbiamo visto, era uno che aveva studiato molto bene il Vecchio Testamento. Nicodemo era cresciuto, aveva studiato e viveva aspettando l'adempimento di una promessa che era stata fatta al popolo giudeo centinaia e centinaia di anni prima, ovvero che il figlio di Davide, il Messia, sarebbe venuto e avrebbe stabilito un nuovo regno, avrebbe stabilito avrebbe iniziato un'epoca nuova, avrebbe incominciato un nuovo regno governato da Dio e del quale avrebbe fatto parte solo il popolo scelto da Dio. Nicodemo viveva con l'aspettativa che questo momento doveva presentarsi da un momento all'altro, che questo regno doveva prima o poi succedere, e poi vede Gesù e vede i miracoli di Gesù e vede le parole di Gesù e vede che l'autorità che Gesù ha e dice: mo, allora forse ci si sta avvicinando a questo tempo, forse questo regno sta veramente per essere stabilito. E quindi dice Gesù: io, ma non è che tu hai qualcosa a che fare con questo regno? Ma non è che sei tu quello che da tanti anni che mio nonno e mio bisnonno e tutte le generazioni prima stavano aspettando e io ti ho davanti agli occhi, ma sei tu? E Gesù gli risponde: Nicodemo, incominciamo da capo, incominciamo dall'inizio, perché se tu non nasci di nuovo, non puoi vedere, non ti è dato, ti è impossibile vedere il regno di Dio, questo regno che tu da tanto tempo stai aspettando. Puoi vedere forse i miracoli, puoi vedere le opere potenti, puoi vedere, puoi sentire una bella predicazione, però se non nasci di nuovo, non puoi comprendere il significato profondo di tutto quello che è davanti ai tuoi occhi. Devi necessariamente nascere di nuovo. E questo, chiesa, all'orecchio di Nicodemo, corrispondeva a questo. Era come se Gesù stesse dicendo a Nicodemo: Nicodemo, tutte le leggi, tutti i sacrifici, tutta l'ubbidienza a quello che sono le opere, non ti daranno l'accesso a questo regno. Le tue opere buone non sono la chiave giusta per aprire quella porta di questo regno di cui tu stai parlando. E non lo sono né i tuoi sacrifici, e non lo sono né le tue tante preghiere, e non lo sono né i tuoi insegnamenti al Sinedrio, neanche il fatto che tu riconosci e che tu mi vedi come qualcuno di speciale. Questo non ti darà l'accesso al regno di Dio, perché devi nascere di nuovo. In altre parole dice Nicodemo: bravo che mi hai visto, bravo che hai riconosciuto delle opere potenti, che hai visto i miracoli, però sai, anche i demoni credono in me, anche loro tremano davanti a me, ma il solo riconoscere qualcosa di speciale in me non ti darà l'accesso per vedere e per entrare in questo regno di cui tu stai parlando e che da una vita stai aspettando. C'è un passo più profondo da fare. C'è un passo che riguarda la condizione del tuo cuore che devi prendere. Devi nascere di nuovo. E questo, chiesa, vale per ognuno di noi che conosciamo Gesù da 20 anni o che magari stai sentendo parlare di Gesù in questi termini per la prima volta. Noi ci troviamo davanti allo stesso Dio, ci troviamo davanti allo stesso Gesù che ci fa lo stesso invito. E quindi Nicodemo gli dice, verso 4, dice: vabbè, ma come può un uomo nascere quando già è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere di nuovo? Allora io qui già me lo vedo Gesù che dice: su via Nicodemo, è una figura retorica questa, ma non riconosci una metafora, per cortesia? È vero che dobbiamo partire dall'inizio, però proprio dagli elementi della lingua italiana non mi sembra il caso. Nicodemo, è una metafora, ma come fai a non comprendere? Sapete, molti vedono, Gesù non ha detto tutto questo, diciamo, è una parentesi, è come la leggo io la Bibbia, un po' colorita, però molti vedono in questa domanda di Nicodemo, un po' riconoscono la sua ignoranza, no? Pensano che Nicodemo non abbia veramente riconosciuto il modo di parlare metaforico di Gesù. Molti la pensano così, forse è così, io personalmente non credo che sia così, perché in realtà non si diventa maestro di Israele, come Gesù lo definirà tra qualche versetto, non si diventa maestro di Israele, uno che predica nel Sinedrio, un capo dei giudei così, per caso. Nicodemo sapeva, era familiare con il linguaggio a volte metaforico che caratterizza il Vecchio Testamento, sapeva riconoscere una cosa da prendere alla lettera e una cosa magari che voleva significare molto di più. Secondo me Nicodemo sta rispondendo a Gesù, portando avanti la stessa immagine che Gesù ha incominciato, semplicemente però per esprimere tutto il suo scetticismo riguardo quello che aveva appena sentito. Gesù gli dice: Nicodemo, devi nascere da capo. E Nicodemo dice: un nuovo inizio. Io diverso, cioè posso avere un nuovo inizio, posso essere una nuova creatura. Si può veramente partire e rifare tutto da capo? No, questo è impossibile. Questo era quello che forse frullava nella mente di Nicodemo quando ha detto: Signore, ma è possibile? Devo entrare di nuovo nel grembo di mia madre? È un po' come se stesse dicendo: va bene, Gesù, ok, che ho visto che c'è qualcosa di speciale in te, però adesso stai promettendo un po' troppo. Incominciare dall'inizio. È vero che hai dato da mangiare a uno stadio con una merendina, ma adesso stai un po' esagerando. Com'è possibile? Com'è possibile? E questo spesso è l'atteggiamento che noi abbiamo con Gesù. Quando leggiamo della nuova speranza che Lui può dare alla nostra vita, la prendiamo esattamente come questa, una speranza. Sì, belle parole, però la mia vita non penso proprio possa veramente cambiare fino in fondo. Quando leggiamo della vita santa, santa, alla quale noi siamo chiamati in quanto popolo di Dio, certo, ci piace, la leggiamo e magari la prendiamo come standard, però ci crediamo fino in fondo che noi veramente possiamo essere santi, che veramente ogni giorno possiamo dire no al peccato, che veramente possiamo perdonare quella persona, che veramente possiamo vivere un matrimonio santo, che veramente possiamo avere delle relazioni pure, che veramente possiamo vivere alla statura di Cristo. Sì, sono parole, certo, è il nostro standard, però qual è la frase che diciamo sempre? Sono fatto di carne, su via Gesù, sono fatto di carne, tu lo sai, non potrei mai, un nuovo inizio, delle nuove creature, com'è possibile? E Gesù davanti a questo scetticismo, che ci accomuna, volente o nolente, a Nicodemo alle volte, non fa un passo indietro, non è che dice sì, no, vabbè, forse hai ragione, un po' esagerato, fammi spiegare meglio. No, no, no, Gesù continua e dà anche ulteriori messaggi, ulteriori dettagli che ci fanno capire ulteriormente, ancora più profondamente, com'è possibile veramente nascere di nuovo. Com'è possibile avere questo nuovo inizio? Se vuoi dare un titolo a questo messaggio, Nicodemo, incominciamo dall'inizio. Al posto di Nicodemo puoi mettere il tuo nome, eventualmente. Gesù verso 5 dice, Gesù rispose, in verità, e tra parentesi, Gesù dice la verità, perché Gesù è verità. Amen? La parola di Dio è veritiera. Tutto, ogni virgola, i passaggi che ci piacciono e i passaggi che non ci piacciono, quelli che comprendiamo a prima lettura e quelli che hanno bisogno di decine, centinaia di letture per capire vagamente il significato. È verità. Amen? Quindi Gesù dice, in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne. Quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Qui Gesù va nel dettaglio su che cosa significa nascere di nuovo. È quello che ci può sembrare un discorso piuttosto complesso. Il vento, lo spirito, non sto capendo niente, mi viene il mal di mare, sto ferma. In realtà è semplicemente una riaffermazione di quanto Gesù ha già detto. Il verso 3 e il verso 5 non fanno altro che dire la stessa cosa. Nel verso 5... abbiamo, se non sei nato di nuovo, quindi nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Qui nel verso 5 c'è, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quindi il nato di nuovo è sostituito da nato d'acqua e di spirito. Il vedere il regno è sostituito da entrare nel regno. Ma la sostanza è questa. Sta dicendo, devi nascere di nuovo, ora aggiunge un dettaglio, devi nascere di nuovo di acqua e di spirito per vedere e per entrare nel regno di Dio. Non ha aggiunto niente Gesù, ha semplicemente riaffermato. Ma perché? Perché ha aggiunto questo, chiamiamolo dettaglio, d'acqua e di spirito? non sta ad indicare due nascite diverse, una naturale e una spirituale. Non sta ad indicare l'acqua, non sta ad indicare l'acqua battesimale. Non sta dicendo Gesù, Nicodemo, ti devi battezzare per entrare nel regno di Dio. Perché il battesimo, ascoltatemi bene, per chi si deve battezzare e per chi l'ha fatto già, non è stata e non lo sarà mai una condizione per entrare nel regno di Dio. Non sarà mai una condizione per diventare figlio di Dio. Non sarà mai una condizione per essere perdonato, accettato da Dio, perché tutto questo avviene per grazia. Amen, grazie Pino. Avviene per grazia, allora perché ci battezziamo? Perché è un simbolo e con il simbolo dell'immersione noi dimostriamo pubblicamente che abbiamo abbandonato tutto quello che faceva parte della nostra vita prima di incontrare Gesù. E con l'immersione, che cosa simboleggia l'immersione? Il fatto che rinasciamo a nuova vita, abbracciando la volontà di Dio in tutto e per tutto. Ma non è di quest'acqua che sta parlando Gesù a Nicodemo, perché Gesù dice se non nasci d'acqua e di spirito, non puoi entrare nel regno di Dio. Qui non è del battesimo che sta parlando. E quindi di che cos'è che sta parlando? Che cos'è? E questa è la domanda proprio che Nicodemo fa. A questo punto Nicodemo c'ha un grande cerchio alla testa e dice: come possono avvenire queste cose? Cioè, Gesù, spiegati meglio. Come possono avvenire queste cose? E Gesù gli rispose: Nicodemo, tu sei maestro di Israele e non le sai queste cose? Allora, non so a voi, ma a me sembra che Gesù qui stia usando proprio questa terminologia d'acqua e di spirito, perché doveva essere una campanella per Nicodemo, gli doveva far venire in mente qualcosa, doveva richiamare alla sua mente una chiave per capire il ragionamento di Gesù. Nicodemo era un po' confuso, quindi non gli è venuta subito questa, non si è accesa subito la lampadina. Che cos'è? Che cos'è che doveva sapere Nicodemo? Che cosa significava per Nicodemo acqua e spirito? Perché Gesù si aspettava che lui fosse familiare con questa terminologia? Allora, sappiamo che Nicodemo sapeva alla perfezione il Vecchio Testamento, giusto? Il problema è che nel Vecchio Testamento di nuova nascita non si parla. Cioè proprio non c'è nessuna dicitura, nuova nascita. Però il binomio acqua e spirito c'è. E c'è numerose volte. E sapete la bellezza del Vangelo, la bellezza della Bibbia? È che trasmette un unico messaggio dalla Genesi all'Apocalisse. 600 anni prima, di questo incontro tra Nicodemo e Gesù, Dio aveva fatto una promessa al suo popolo. Le aveva promesso che l'avrebbe liberato, l'avrebbe restaurato, e lo fa in questi termini. Leggete con me, Ezechiele 36, dal 24 al 28. Era questo che Nicodemo doveva ricordarsi. Dice: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Non è meraviglioso? 600 anni prima Dio aveva promesso che con acqua avrebbe purificato il suo popolo e l'avrebbe poi equipaggiato e riempito del suo spirito. È questo che Gesù intende quando dice: Nicodemo, devi nascere d'acqua e devi nascere in spirito. Gesù stava parlando di uomini nuovi, di donne nuove, non di leggi nuove, non di una nuova religione, non di una nuova filosofia, non di una nuova professione di fede, ma di creature nuove, da dentro, dove il cuore di pietra è sostituito dal cuore di carne che solo Gesù ci può dare, dove uno spirito senza speranza è sostituito dallo spirito di Dio dentro di noi. È di questo che Gesù stava parlando. Un popolo purificato nella mente, nel cuore, nel fisico. Un popolo che è riempito dello Spirito Santo, che ci convince, che ci fa rendere conto che siamo peccatori e ci spinge verso Gesù, che ci purifica, che ci santifica, che ci insegna dove dobbiamo andare, che ci guida, che ci consiglia, che ci restaura. Questo significa nascere d'acqua e di spirito, essere purificati in virtù del sacrificio che Gesù ha fatto, ed essere equipaggiati, riempiti del suo spirito per vivere una vita santa. Gesù non stava promettendo troppo, non stava promettendo troppo, perché è Lui, è lo Spirito Santo che facilita questa nuova nascita. Amen? Non è fantastico? Potete dirlo anche ai vostri volti. Cioè, questo è fantastico. 600 anni prima Gesù aveva detto, Dio aveva detto questo, e Gesù è venuto per adempiere quella promessa. E noi, 2000 anni dopo, viviamo in quella promessa, e la nostra parte è semplicemente quella di abbracciarla. Il vento, verso 8, il vento, lo spirito, che tra l'altro nella lingua originale vento e spirito erano un'unica parola, quindi qua Gesù sta facendo un bel gioco di parole che noi ci perdiamo, e vabbè, non fa niente. Comunque il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, dice Gesù a Nicodemo, tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dello spirito. Il vento è vero, noi non lo vediamo, non sappiamo né da dove viene né dove va, a meno che non siamo Piero Angela, che quello sa tutto. Tutto sa. Proprio io invece, insieme a Carly, facendo i compiti con i bambini, dovevamo distinguere est, ovest, sud. Non vi dico, ci siamo tutti alzati, ci siamo messi, se il sole è da qua, dov'è l'ovest. Pensate un po' se noi dovremmo sapere da dove viene il vento. Non c'è proprio speranza in questo. Comunque, il punto non è questo, il punto è che il vento noi ne lo vediamo, né sappiamo da dove viene, né sappiamo dove va. Però, quando c'è, lo sentiamo, lo udiamo, vediamo gli effetti che il vento produce. E Gesù dice, così è di quelli nati di nuovo. Che cosa sta dicendo Gesù? Dice che laddove ci sia un'autentica nuova nascita in acqua e in spirito, se ne vedranno i risultati, si vedono gli effetti. Dove c'è una nuova nascita, c'è trasformazione. Dove c'è una nuova nascita, c'è cambiamento. Non possiamo dire di essere rinati in Gesù se siamo esattamente uguali a chi eravamo prima di conoscere Gesù. Qui il campanello d'allarme dovrebbe, diciamo, suonare un po' nelle orecchie di tutti quanti noi. Perché? Perché dove c'è una rinascita c'è trasformazione? Perché dove è vero che siamo nati di nuovo in Gesù ci deve essere per forza un cambiamento? Per tre motivi. Perché lo Spirito ci rende delle creature nuove. 2 Corinzi 5,15 dice, lo sappiamo tutti, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. In Gesù, quando rinasciamo in Gesù, noi non diventiamo la versione perdonata di chi eravamo prima, ma noi siamo delle nuove creature con una nuova identità. Noi siamo delle creature che cresciamo e che siamo trasformate dalla presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che siamo trasformate dalla lettura della Bibbia, che siamo trasformate dalla vita di Chiesa. Non siamo solo delle persone, non siamo solo le stesse persone, solo che siamo perdonate. Noi eravamo figli d'ira, eravamo figli di disubbidienza, addirittura la Bibbia dice che noi eravamo figli del diavolo. Solo lo Spirito Santo poteva trasformarci in una stirpe eletta, in un sacerdozio regale, in una gente santa, in un popolo che Dio si è appartato chiamandolo dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. È solo lo Spirito Santo che poteva fare una cosa del genere. Ecco perché essere nati di nuovo non significa essere la versione migliore di quello che eravamo prima. Non significa essere delle persone più buone di chi eravamo prima. Non significa essere una versione che rispetta di più i comandamenti, o che va in chiesa ogni domenica, o che addirittura serve in chiesa. Non significa questo. Significa essere trasformati da dentro. Significa avere una comunione con lo Spirito Santo tale da parlare diversamente, da pensare diversamente, da agire diversamente, da avere delle priorità diverse, da avere delle aspettative diverse, da fare degli investimenti diversi. Sì, Chiesa? Ci sei? Allora la domanda è, certamente noi ci ricordiamo chi eravamo prima di conoscere Gesù. Io perlomeno me lo ricordo benissimo. La domanda è, da quando abbiamo conosciuto Gesù, da quando abbiamo fatto entrare Gesù nel nostro cuore, il suono della nostra vita è cambiato. Il colore della nostra vita è diverso. Se è sì, e io credo che sia sì per la nostra Chiesa, che bello, continuiamo a vivere nello Spirito, continuiamo a ricercare quella comunione, continuiamo ad essere rinnovati e rigenerati dalla presenza dello Spirito Santo in noi. Ma se ci sono alcune cose che tali erano e tali sono rimaste, allora oggi Gesù dice: Nicodemo, Anna, Maria, Giuseppe, Vito, incominciamo da capo. Cominciamo da capo, perché si può, perché lo faccio io. Il secondo punto, quindi lo Spirito ci rende delle nuove creature. Due, lo Spirito ci equipaggia di una nuova potenza. Tito 3,5 dice: Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione. Vedete come ritorna questo linguaggio di rinascita, di purezza, di acqua che purifica. È il rinnovamento dello Spirito Santo. Chiesa, voglio che questo proprio ci rimanga. Non siamo noi contro la nostra vecchia natura. Non siamo noi contro il peccato che così facilmente ci avvolge. Non siamo noi contro il vecchio io. Siamo noi con lo Spirito Santo. Anzi no, è lo Spirito Santo con noi che ci trasforma. È lo Spirito Santo in noi che ci rinnova. È lo Spirito Santo in noi che lavora e ci riempie e ci equipaggia e ci permette di vivere quella vita santa. Se c'è un peccato nella tua vita, se sei ancora schiavo di vizi, di pensieri, di desideri che lo sai che non dovrebbero essere i tuoi, non ti accontentare della vita che stai facendo. Ricerca lo Spirito Santo nella tua vita, chiedi perdono, ravvediti, chiedi allo Spirito Santo di aiutarti Lui a vincere quel vizio. È possibile. Gesù non ha promesso troppo, non si è allargato. Gesù sapeva perfettamente quello che stava dicendo, perché conosceva perfettamente Nicodemo e conosce perfettamente te e me oggi. La terza cosa che lo Spirito Santo fa nella rigenerazione, nel nascere di nuovo, è che lo Spirito ci dà dei nuovi desideri. Lo Spirito ci rende delle creature nuove, ci equipaggia di una nuova potenza e lo Spirito ci dà dei desideri nuovi. L'abbiamo studiato, l'abbiamo visto settimane addietro. Galati 5:16 dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne. Camminate secondo lo Spirito e non adempirete ai desideri della carne, perché ce ne avrete di nuovi di desideri. Perché è lo Spirito Santo che ci dà nuovi desideri, camminando in Lui, scelta dopo scelta, giorno dopo giorno, succede che noi non vogliamo più adempiere ai desideri della carne. Succede che siamo stati così trasformati, siamo proprio delle nuove creature, che ci domandiamo: ma perché? Perché mi devo fare male? Perché devo ancora andare dietro questi sentimenti, questi desideri, se Dio ha così tanto di più per me? Una vita religiosa dice che una vita religiosa è condotta, diciamo, è caratterizzata da quello che uno deve fare e quello che uno non deve fare. Allora, devo pregare, non devo dire parolacce. Devo leggere la Bibbia, devo andare in chiesa, non devo pensare male, non devo peccare, devo resistere alla tentazione, non devo questo, non devo quello. Lo Spirito cambia i nostri desideri. Vuol dire che non siamo chiamati a una vita religiosa secondo la quale devo o non devo fare, ma io sono chiamata a una vita con lo Spirito Santo, una vita nella quale voglio fare, una vita nella quale voglio essere santa, voglio fare la volontà di Dio, perché è lo Spirito Santo che cambia il mio desiderio. E allora io non devo resistere al peccato, non devo combattere contro il peccato. Capitemi bene quello che sto dicendo, è chiaro che lo dobbiamo fare, però arriviamo a quel punto che non serve così essere paurosi davanti al peccato, perché è il nostro desiderio che è cambiato. Io non devo peccare, io non voglio peccare, perché sono chiamato a tanto di più, perché vivo per una causa superiore, perché lo Spirito Santo è in me, perché io sono il tempio dello Spirito Santo. Come posso abusare di questo tempio, sporcandolo di cose che non onorano Dio? Allora io non una vita nello Spirito Santo è una vita che non dice: io devo leggere la Bibbia, ma io voglio leggere la Bibbia, voglio imparare, voglio essere trasformata e purificata dalla parola. Non è devo pregare, ma io voglio stare in comunione con Dio, io voglio ascoltare la sua parola, io voglio essere quella pecora che riconosce la voce del suo pastore. Io non devo frequentare una chiesa, ma io voglio fare parte della famiglia di Dio. Io non devo andare ogni giorno, ogni domenica in chiesa, ma io non vedo l'ora, io voglio stare in comunione con Dio e con i miei fratelli e le mie sorelle. E la domenica non mi basta, infatti faccio pure parte di un gruppo, non perché devo, ma perché voglio. Voglio avere delle relazioni che mettono Dio intenzionalmente al centro. Io voglio questo. Io non devo servire la chiesa, non devo fare, ma voglio dare il mio contributo. Io non devo essere generosa, non devo dare la mia decima, ma io voglio, perché so che è giusto, perché ho il desiderio, non vedo l'ora che mi arriva questo stipendio, così posso togliere il 10, il 15, il 20, il 50% e darlo a Gesù. Questa è la vita cristiana. Amen? Questa è la vita cristiana, è una vita piena dello Spirito Santo, una vita gioiosa, una vita non di persone migliorate, ma una vita di persone cambiate, una vita non di persone più buone, ma una vita di persone che sbagliano, sì, che forse saranno tentati dal peccato, ma non sono definiti da quello. Non una vita di persone che devono fare qualcosa, ma una vita di persone che si rendono conto che erano morte e sono state portate in vita. Amen? Allora, Nicodemo, cominciamo da capo. Iniziamo da capo. Se tu ti sei reso conto che vivi effettivamente questo devo, ma in realtà i tuoi desideri sono diversi, c'è speranza. Coinvolgi lo Spirito Santo. Puoi incominciare da capo. Se tu ti sei reso conto che come eri prima sei adesso, solo che semplicemente la domenica vieni in chiesa, c'è speranza. Non devi accontentarti di questa vita mediocre. Puoi vivere una vita straordinaria. Puoi vivere una vita condotta e riempita dallo Spirito come una nuova creatura. Sì? Perché non ci alziamo in piedi? E chiudiamo i nostri occhi. E chiesa, io vorrei che tutti quanti noi ci mettessimo in discussione, dal più grande al più piccolo, da chi sta qui avanti nelle prime file a chi sta dietro vicino il bar. Oggi Gesù ti dice: ehi, incominciamo da capo. E se tu oggi hai sentito parlare di questo Gesù per la prima volta, magari non sei come Nicodemo, che già sapeva chi fosse Dio, che già viveva, una vita alla luce di quello che il Vecchio Testamento diceva. Se tu proprio non hai mai sentito parlare di Gesù e oggi ti sei reso conto che Gesù, come stava parlando con Nicodemo 2000 anni fa, sta parlando con te oggi, e ti sei reso conto che hai bisogno di incominciare da capo, ma di incominciare con Gesù, allora io oggi ti voglio dare l'opportunità di aprire il tuo cuore a Gesù. Io voglio pregare con te. Sapete, qualche versetto dopo Gesù dice a Nicodemo, dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio Gesù affinché chiunque creda in lui non muoia ma abbia vita eterna. E Nicodemo pensava che fosse solo per una parte di persone, ma Gesù è venuto per salvare tutte le persone che lo riconoscono come figlio di Dio, che riconoscono il fatto che in lui c'è perdono, che in lui c'è speranza, che in lui si può vivere un nuovo inizio, una nuova vita, si può essere delle nuove creature. Chiudiamo tutti quanti gli occhi, chiesa. E se tu sei ti ritrovi in queste parole, perché non alzi la tua mano e dici: sì, io ho bisogno di questo Gesù, io ho bisogno di questo nuovo inizio, io voglio incominciare da capo con Gesù. Posso vedere la tua mano? Così che io possa pregare con te e per te. Grazie lì dietro, grazie qui avanti. Grazie, vedo parecchie mani che si stanno alzando. Se tu per la prima volta, stai riconoscendo che hai bisogno di Gesù, alza la tua mano, io pregherò per te. Grazie qui avanti. Che bello. Incominciamo da capo. È possibile, Gesù non ha promesso troppo. Amen. Perché non ripetiamo tutti insieme questa preghiera, che vuole essere una preghiera di invito, una preghiera nella quale apriamo il nostro cuore a Gesù e gli chiediamo di entrare nella nostra vita. Ripetete insieme, lo ripetiamo insieme tutti quanti, chiesa. Signore Gesù, grazie perché sei vivo. Tu sei il Figlio di Dio e io ti riconosco come mio Salvatore. Ti chiedo perdono per ogni mio peccato. Purificami, Gesù, e riempimi della tua presenza. Aiutami a vivere una vita che sia una vita santa, che ti mette al centro e che possa fare la tua volontà. Nel nome tuo Gesù prego questo. Amen. Amen. Amen. Grazie Gesù. Amen. Possiamo dare gloria a Dio ancora più forte? Perché Lui oggi ha salvato, perché Lui oggi ha liberato e perché questo è il nuovo inizio che noi possiamo avere da oggi fino all'eternità. Perché non cantiamo tutti quanti insieme, Chiesa, e celebriamo questo miracolo? Amen.